Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il mese di agosto ha riservato molte sorprese e qualche patema a chi si occupa di finanza o a chi semplicemente legge di finanza, anche per sapere come andranno a finire i propri risparmi. La Cina ha tenuto banco quest'anno e proprio alla luce di quello che è successo in queste ultime settimane vi propongo un'analisi di un noto economista italiano, Gian Giacomo Nardozzi, che ha scritto un libro che si rivolge non agli specialisti ma a tutto il pubblico per spiegare uno dei fenomeni che ha maggiormente contribuito a trasformare l'economia internazionale, ossia lo sviluppo impetuoso e apparentemente inarrestabile della finanza, che poi è alla base questo fenomeno di quello che è successo, sta succedendo in Cina. Il libro di Nardozzi si intitola Il mondo alla rovescia, come la finanza dirige l'economia, pubblicato dal Mulino, 184 pagine, 12 euro. Come avete sentito prima, si tratta di un'opera agile rivolta a un pubblico di non specialisti che certamente si interroga ormai da anni su questo fenomeno del quale si sente tanto parlare, sul quale si scrive tanto, cioè quello della finanziarizzazione che ha invertito, e di qua appunto il mondo alla rovescia, i ruoli tra finanza e produzione. Prima la finanza era al servizio della produzione, dell'industria, dello sviluppo, oggi è rivolta soprattutto a creare sempre nuovi profitti con strumenti sempre più complessi, eterei, sofisticati, perché non legati appunto alla produzione ma alla speculazione sui rischi. E da qui la domanda che si pone l'autore Gian Giacomo Nardozzi, il quale si pone tre semplici domande che vi richiamo. Perché la finanza è diventata ipertrofica? Quali gli effetti di questo suo abnorme sviluppo? Si riuscirà a frenarlo con la gran massa di regole imposte dalle riforme congegnate negli ultimi anni oppure occorrerà una vera e propria svolta nella gestione dell'economia? Queste domande si concludono con una morale che è basata sulla politica. Quest'ultima infatti ha lasciato alle banche centrali, sempre secondo Nardozzi, ogni responsabilità della politica monetaria. Sono proprio le banche centrali che con le proprie scelte sui tassi di interessi regolano e favoriscono l'assunzione di questi rischi. E dunque occorre ripensare, conclude l'autore, alle politiche macroeconomiche. E proprio mentre lo leggevo è scoppiata la crisi in Cina e quindi partiamo proprio da questo per sentire l'autore. Buonasera Gian Giacomo Nardozzi. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Gian Giacomo Nardozzi, questa crisi cinese che ha infiammato il mese di agosto conferma in qualche modo le analisi del suo libro? In fondo lei qualche cosa aveva previsto, perché a un certo punto del libro scrive che questa finanza alternativa alle banche cresce e la sua consistenza in Cina è ormai fonte di preoccupazione. Abbiamo superato la preoccupazione. Ho trovato una conferma, non è una cosa da essere contenti, ma insomma perlomeno è una conferma di quello che scrivo nel libro e della diagnosi di fondo del libro, e cioè che viviamo in un'economia palesemente distorta da un eccesso di utilizzo della politica monetaria che spinge ad assumere rischi finanziari piuttosto che i sani rischi imprenditoriali che creano poi sviluppo e occupazione. La Cina ha seguito un po' la strada americana ed europea, quindi grande iniezione di liquidità che potrà creare nuova liquidità, nuova finanza e nuovo risparmio però. Sì, ammesso che tutto questo non venga compromesso dalla crisi finanziaria che sta vivendo la Cina e che rischia di trasmettere al resto del mondo. In Cina si è avuto uno scollamento tra finanza euforica ed economia in rallentamento che è stato reso direi proprio estremo dal tentativo del governo di sostenere artificialmente i corsi azionari, prima attirando molti piccoli investitori, convincendoli a investire in borsa, prospettando grossi guadagni eccetera. E poi con interventi diretti in acquisto stimati attorno alla bella cifra di 200 miliardi di dollari. Era chiaramente una battaglia insostenibile, perché in sostanza direi che la Cina fa i conti con quello che è il capitalismo una volta che lo si fa affermare e soprattutto lo si stimola finanziariamente. Quindi la Cina ha pensato di cercare di imbrigliare le forze che aveva scatenato ma con una battaglia insostenibile, e quando è giunta la resa c'è stato immediatamente il contagio anche per i nostri mercati, i mercati occidentali, e questo perché si tratta di mercati che sono molto reattivi, perché a loro volta sono pompati da politiche monetarie eccezionalmente espansive, sia negli Stati Uniti che nell'Eurozona. Ecco, veniamo quindi al contenuto del suo libro, quello al quale lei ha già accennato. Che cosa c'è che non va nell'eccesso di finanziarizzazione nell'economia internazionale? Ecco, io nel mio libro ho cercato non solo di spiegare che cosa c'è che non va, e l'ho illustrato mostrando gli effetti sulla distribuzione del reddito, maggiore diseguaglianza, gli effetti sulla crescita, gli effetti di instabilità finanziaria, quindi crisi sempre più frequenti. Ho voluto anche mostrare quello che è la maggiore causa di questa finanziarizzazione, e cioè la politica monetaria, l'uso e l'abuso della politica monetaria come strumento di amministrazione macroeconomica dell'economia. La politica monetaria opera con i due fattori fondamentali della finanza, che sono il costo e la disponibilità del denaro. E questo influenza potentemente anche la domanda di rischio, che è la merce che ormai soprattutto tratta la finanza. Proseguo, diciamo, rilanciando la palla ai governi, sostenendo che questo abuso di politica monetaria deriva da una vera e propria delega da parte dei governi alle banche centrali di occuparsi dell'economia. Ecco, fermiamoci qua un momento. Mi pare che questa sua tesi sostanzialmente segni un po' una, non dico una condanna definitiva, però certo l'ammissione di una grossa crisi del monetarismo, che per molti anni ha imperato nell'ortodossia anche economica di tutto il mondo. Beh, sì e no, perché ricordiamoci che il padre del monetarismo, Friedman, sosteneva che il primo compito delle banche centrali è quello di non disturbare l'economia attraverso eccessive variazioni dell'offerta di moneta. Quindi, diciamo, il monetarismo da un lato sostiene che la politica monetaria è lo strumento più potente per governare la economia, dall'altro però avverte attenzione a usarlo in maniera prudente. Tutto è stato fatto meno che usarlo in maniera prudente. Il fondo non aveva tutti i torti da questo punto di vista, Friedman. A proposito della sua morale, quella al quale ha fatto già un cenno, che in fondo servirebbe che gli stati non abdicassero in qualche modo ai loro ruoli e che quindi ci fosse un intervento della politica maggiore, come si può immaginare un intervento di questo genere? C'è spazio oggi nelle opinioni pubbliche, anche nelle politiche possibili, per dare maggiore spazio allo Stato e riconoscere un maggiore interventismo allo Stato in materia economica e finanziaria? Questo spazio mi sembra che si apra innanzitutto uno spiraglio, almeno per quello che si riferisce all'Eurozona, che è quello che a noi più interessa poi, proprio in conseguenza della svolta cinese. Perché questo costituisce una bella lezione per l'Eurozona e credo che sia positiva, perché va nella direzione che io auspico. Perché? Perché mette in difficoltà il modello tedesco che la Germania addita all'Europa. Modello che è molto semplice nelle sue linee generali. Comprime la domanda interna, austerità fiscale e salariale, e puntare sulla competitività per esportare. E la svolta cinese mostra, e lo mostra come meglio non si potrebbe veramente, la fragilità di questo modello. L'intero mercato di sbocco per le merci europee dell'est asiatico si sta contraendo e si aggiunge alla minor domanda di esportazioni tedesche ed europee che viene dalla Russia e da altri paesi emergenti colpiti dal calo dei prezzi del petrolio e delle materie prime. E nello stesso tempo, in seguito alla crisi cinese, il cambio dell'Eurozona si è rafforzato rendendo quindi più costosi i beni di importazione europea. Quindi se la domanda esterna sta cadendo, e per riferirci al capo di governo che è sempre sulla bocca di tutti, la signora Merkel non vuole far soffrire l'economia tedesca, e bisogna spingere sulla domanda interna con meno austerità fiscale. Ricordiamoci che la Germania sta perseguendo il pareggio di bilancio e o maggiori salari, ovvero, in parole povere, bisogna ripensare al modello tedesco. Lei sottolinea con un certo interesse la tesi, riprende con un certo interesse la tesi della stagnazione secolare che è stata avanzata da alcuni economisti, secondo la quale appunto le prospettive dell'economia nei prossimi anni sono sostanzialmente di staticità. È una tesi molto contestata questa, per la verità, e tra l'altro anche gli ultimi dati sullo sviluppo americano in qualche misura non la confortano del tutto. Ma insomma, lei come la vede questa tesi della stagnazione secolare? Glielo chiedo anche perché a questo punto lei tira in ballo di nuovo Keynes, che non dimentichiamo era anche un grande speculatore finanziario. Sì, per partire dalla fine, proprio perché Keynes era un grande speculatore finanziario, conosceva benissimo i limiti della finanza e la capacità di perturbazione dell'economia che può venire dalla finanza. Però, per rispondere meglio alla domanda, dicevo prima, a proposito del caso tedesco, di quello che sta succedendo oggi in Germania in seguito alla crisi cinese, che questo è un primo spiraglio per rivedere una conduzione dell'economia che poggi meno sulla politica monetaria. Il secondo spiraglio, l'ha ricordato molto bene, è riferito alla tesi di stagnazione secolare, tesi che io illustro dicendo: non sono sicuro che sia giusta, però se per caso lo fosse, e è vero che ci sono critiche contrarie a questa tesi, ma è altrettanto vero che è sostenuta piuttosto decisamente da importanti economisti, se fossimo in questa tendenza di stagnazione secolare, veramente la politica monetaria non potrebbe aiutare in nulla, perché dovremmo avere dei tassi di interessi reali stabilmente negativi. Dico stabilmente perché ogni tanto può capitare che i tassi di interesse reali siano negativi, ma che siano stabilmente un regime di tassi di interesse reali negativi porterebbe poi a frequenti crisi finanziarie. E quindi bisogna ripensare l'idea di Summers, che è uno dei grossi sostenitori della tesi di stagnazione secolare, è quella di ritornare all'idea di investimenti pubblici che rafforzino l'economia, quindi investimenti pubblici in infrastrutture e in varie altre attività, seguendo appunto in fondo l'idea di Keynes, che era di approfittare dei momenti in cui i privati non riescono a sostenere con i loro investimenti una crescita sufficiente dell'economia, per dotare l'economia stessa di tutte quelle infrastrutture che si riveleranno poi bene su lungo periodo. Ecco, allora ai lettori risparmiatori che cosa consiglia di fare, oltre che leggere attentamente il suo libro? Però in questo momento noi abbiamo una situazione tendenzialmente deflazionistica ancora, con dei mercati molto euforici che, come abbiamo visto, a un primo segnale di crollo, di riduzione dei prezzi, reagiscono piuttosto decisamente perché sono incerti, perché sono troppo alti, sono come una persona che gli vengono un pochino i brividi e le vertigini perché si trova troppo in alto, quindi basta qualcosa, poco, anche per spaventarlo. Quindi in una situazione di questo genere, tenere la moneta liquida, tenere i soldi in banca, in fondo non fa perdere, perché se c'è una stabilità dei prezzi e addirittura una tendenziale deflazione, non si perde a tenere i risparmi in forma liquida. Non mi metterei a investire su mercati che potranno ancora aumentare, dare delle buone prestazioni, ma presentano anche grossi rischi, e l'abbiamo visto settimana scorsa. È comunque sempre meglio investire in libri. Grazie a Gian Giacomo Nardozzi. Mi piace questa battuta finale. Grazie a Gian Giacomo Nardozzi, autore de Il mondo alla rovescia. Buona serata. Arrivederci. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo concluso con Nardozzi parlando di Keynes. E allora vi segnalo un altro libro profondo ma divulgativo di uno dei maggiori studiosi di Keynes, che è Giorgio Lamalfa, che è stato, come ricorderete, anche un leader politico, il quale ha pubblicato un agile volume nella collana Eredi di Feltrinelli, che si intitola appunto John Maynard Keynes, 122 pagine, 11 euro. E Keynes, come dicevamo prima, non fu soltanto un economista ma anche un speculatore in borsa, ma soprattutto fu un autentico rifondatore dell'economia e un grande intellettuale, il che spiega per Lamalfa il fascino che egli esercitò già sui suoi contemporanei, un fascino determinato dall'impegno di Keynes perché i suoi colleghi riscoprissero il rapporto tra l'economia, la politica e la cultura tout court. E questo fascino fu esercitato in modo particolare soprattutto all'indomani della grande crisi del 29, quando le analisi di Keynes tornarono particolarmente utili. E anche Lamalfa rivendica l'esigenza di riscoprire Keynes dopo la grande crisi degli anni 2007-2008. E quindi di riaffermare la dottrina di Keynes anche contro la vulgata anti-keynesiana che si è affermata negli ultimi decenni e che nulla toglie la capacità del grande economista inglese di offrire un'analisi suggestiva e ancora attuale. Del resto, ricordo opportunamente Lamalfa, Keynes era un liberale e fu anche per molti anni iscritto a quel partito. E particolarmente interessanti nel libro sono le ultime pagine, nelle quali l'autore analizza il pensiero di Keynes leggendolo alla luce delle vicende intellettuali e politiche che hanno caratterizzato gli ultimi 30-35 anni, con riflessioni anche di carattere etico sul capitalismo e sul suo funzionamento. Il re, signor Colbert, deve essere l'unico pilastro dello Stato. Per impedire il ritorno della fronda e governare, non basta appoggiarsi su una persona che sia più devota di un'altra. Bisogna invece che ogni suddito dipenda unicamente dal re, come in natura tutto dipende dal sole. Il popolo deve aver garantito il suo lavoro e il suo pane, in modo che la miseria non lo spinga fra le braccia di nuovi frondisti. Noi cercheremo di alleggerire le tasse e le imposte. Quanto alla nobiltà, io voglio che torni a dipendere dal re in tutto. Privilegi, onori, denaro. Per questo motivo la terremo sempre vicino a noi, separata dalla borghesia, e faremo in modo che l'essere allontanati da noi sia una punizione più grave dell'esilio. Qualche elemento di politica economica è in questo brano, tratto dal famoso film di Roberto Rossellini La presa del potere da parte di Luigi XIV, un film del 1966. Avete sentito proprio il re Sole, che in quel film era interpretato da Jean-Marie Papte. Lo ricordiamo perché martedì scorso è caduto il 300° anniversario della morte di Luigi XIV, del re Sole. La Francia si appresta a celebrare questo anniversario con grande pompa, come si deve appunto a quel sovrano che fu l'antesignano dell'assolutismo. Anzi, una grande mostra aprirà il 27 ottobre a Versailles, che è il simbolo anche architettonico e botanico, per così dire, della grandeur di Luigi XIV, una mostra che si intitolerà Le Roi est mort, con l'allestimento tra l'altro di un italiano, di Pierluigi Pizzi, e che inoltre fino sempre a Versailles, fino al 9 novembre, è in corso una mostra sul tema da Luigi XIV a Charles de Gaulle. Di Luigi XIV esce adesso una biografia scritta da uno dei suoi più grandi avversari e uno dei massimi scrittori francesi, il duca di Louis di Saint-Simon, che fu contemporaneo e, come vi dicevo, avversario dell'assolutismo del Re Sole. Il libro si intitola Re Sole, è pubblicato da Castelvecchi, 188 pagine, 17,50 euro, ed è tradotto da Adalberto Cremonese. Saint-Simon è famoso per un'opera monumentale, i suoi memoir, che per molti anni furono chiusi negli archivi e mai pubblicati proprio per i giudizi non sempre lusinghieri sulla gestione del potere in Francia. Questi memoir partono dal 1691 e sono considerati anche un documento fondamentale della letteratura francese, oltre che una straordinaria testimonianza sugli anni esaminati da Saint-Simon. Il libro che vi presento oggi pubblica i 9 capitoli di queste memorie dedicati appunto a Luigi XIV. L'assolutismo non ebbe un enorme successo. Meno di 100 anni dopo dalla morte del Re Sole, infatti, ci sarebbe stata la Rivoluzione francese. E della Rivoluzione francese Fazzi sta pubblicando una storia scritta da Hilary Mantel, che è una romanziera, che racconta sotto forma narrativa le vicende intricate della Rivoluzione con la miniera di personaggi che l'hanno caratterizzata. Adesso esce l'ultimo volume di questa trilogia, si chiama I giorni del terrore, la storia segreta della Rivoluzione, terza parte, tradotto da Giuseppino Netta, 19,50 € per 506 pagine. Il precedente volume, uscito l'anno scorso, si intitolava Un posto più sicuro, 18 euro, pagine 352. Questa è una storia basata proprio sui personaggi, sulla loro psicologia, le passioni, spesso i fanatismi, e poi i successi e i fallimenti che danno una visione particolarmente palpitante di questa pagina fondamentale della storia moderna. Sul periodo che è considerato in questo terzo volume della Mantel, dedicato appunto al terrore, esce un libro di uno scrittore italiano, Roberto Paura, che ha scritto per l'appunto una storia del terrore, Robespierre e la fine della Rivoluzione francese, pubblicato da Odoia, 416 pagine, 24 euro, con molte illustrazioni. Il terrore è considerata certamente come la pagina più nera della Rivoluzione, tanto da aver dato vita a una doppia interpretazione della Rivoluzione, quella gloriosa dell'89 e quella terribile appunto del 93. E forse anche per questo, in fondo, quella pagina è una delle meno battute, relativamente meno battute dagli storici che si occupano di Rivoluzione francese. Ma il terrore, scrive l'autore, merita di essere riconsiderato. Esso infatti, secondo Paura, evitò che la Repubblica venisse rovesciata, ma soprattutto aprì a temi che sono ancora di particolare attualità e che Paura elenca: problemi straordinariamente moderni, dal suffragio universale al reddito minimo, dall'ateismo ai diritti sociali, dall'emancipazione delle donne alle conflittualità tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, dai rischi di un potere incontrollato formato sulla persecuzione di quanti non ne condividono il progetto politico. Hannah Arendt ha esplorato con intelligenza il rapporto tra terrore e totalitarismi, fino al problema ancora irrisolto dell'appannamento dei principi rivoluzionari quando si giunge al potere. Questo è l'elenco dei temi attuali che l'autore indica. Insomma, è una storia questa di Paura, se non del tutto simpatetica col terrore, che certamente non nasconde il fascino esercitato sull'autore da la pagina di storia. E a questo punto il confettino. Vi ripropongo un libro che fu scritto per i ragazzi da un grande storico francese, Jacques Le Goff. Lo ripropone adesso la terza, con il titolo L'Europa raccontata da Jacques Le Goff, 132 pagine, 9 euro, tradotto da Fausta Cataldi Villari. Le Goff spiega qui che cosa sia l'Europa, partendo da due domande fondamentali. Ma allora l'Europa esiste? E che cosa vuol dire essere europei? Le Goff parte da lontano, definisce i confini dell'Europa, ne tratteggia la storia, ne pone la sfida chiedendosi che direzione prenderà questo continente che ha oramai un proprio nome, come la principessa leggendaria di cui ha preso il nome. Sarà capace di assumersi le sue responsabilità? Si costituirà cioè in un'unità? Oppure continuerà a essere un mito, un sogno staccato dalla realtà di popolazioni molteplici e diverse, un continente fatto di europei senza un'Europa? Come sentite, tutte domande che possono favorire una lettura comune fra ragazzi e genitori su un tema di straordinaria attualità. Le Goff racconta qui rapidamente le tappe principali della storia dell'Europa e, per esempio, a proposito del terrore, sottolinea gli aspetti critici di quella pagina di storia. Spiega infatti Le Goff che il terrore avvenne quando i più transigenti tra i rivoluzionari presero il potere, si limitarono le libertà dei cittadini, fecero ghigliottinare i loro avversari senza rispettarne il diritto a essere giudicati imparzialmente da tribunali indipendenti, imposero il terrore, condussero una guerra fanatica e spesso atroce contro gli avversari della Repubblica. In questo la rivoluzione si è dimostrata intollerante. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.